9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. Ed è allo zoo comunale che in questa trasmissione natalizia, buon Natale a tutti, interrompo la sigla di queste mie ultime trasmissioni prima dell'addio che vi faccio tra pochi giorni, del saluto, poi l'addio, mai dire mai, chi lo sa, magari sopravvivo, magari ritorno, non lo so. Però lo zoo comunale oggi in questa puntata, che ho in me registrata perché mi hanno chiesto anche di registrare, quindi ve lo dico subito, non potete chiamare, ma in questo giorno del Santo Natale, in questa registrata, ho deciso di cogliere, prima del disegno finale del mio saluto a voi a fine anno, agli ascoltatori che mi avete riempito la vita in questi anni, di dedicarla in questo Natale a un pezzo di ciò che secondo me viene, almeno questa è la mia convinzione, prima degli umani nella sensibilità e nella vitalità e nell'affetto e nella condivisione dei momenti brutti. Nella mia vita è stato così, lo è sicuramente per molti anche di voi in ascolto, non so se per tutti, ma lo zoo comunale per me è collegato a una questione, quella per la quale per anni la mia trasmissione è cominciata con lo sgraffignante, stridente miagolio del mio grande gatto Alfa Artù, perché era lui registrato qualche anno fa, e quindi questa trasmissione io la dedico a chi per me spesso viene prima degli esseri umani, perché ha più cuore, ha più fedeltà, ha più affetto. Sì, sto parlando degli animali. Oggi passiamo un Natale, per così dire, ricordando la grande lezione di San Francesco che parlava ai lupi perché capivano meglio degli uomini, dei politici non voglio dire oggi, ma insomma degli uomini spesso, talvolta anche. Allora, oggi parliamo degli animali da aiutare. Degli animali da aiutare. Sì, lo so che adesso direte: ma che cavolo di tema è? Noi oggi ci accingiamo a smaltire la cena della vigilia, stiamo preparandoci per Natale. Ecco, apposta la scelta è in coerenza a ciò che hanno dato a me nella vita e danno a molte persone quando soffrono, stanno male, eccetera, eccetera, ma danno nella loro vita quotidiana e così via. I nostri cari animali, e perché siccome noi tendiamo in questi giorni anche a regalarne molti, magari senza pensarci troppo sopra, invece oggi questa puntata natalizia è con dei protagonisti dell'impegno quotidiano, o al di là di quello che fanno nella vita, o perché lo fanno nella vita, per aiutarci a non dimenticare che i nostri gatti, cani, cavalli, io li accumulo tutti, e odio gli zoo da questo punto di vista, hanno dei problemi, bisogna occuparsene, non bisogna considerarli dei peluche che si regalano e poi si dimenticano, e soprattutto rappresentano una enorme carica di empatia, di comprensione e di condivisione. Non pensiate che io stia esagerando, perché dovunque ho potuto ho utilizzato la presenza di cani, gatti, eccetera, eccetera, anche con chi sta male, nel tentativo di fargli toccare con mano e nel cuore l'empatia di cui gli animali, i nostri amici, sono capaci, e talvolta secondo me superano gli esseri umani in questo, ciascuno con il suo carattere, ciascuno con il suo DNA, i cani e i gatti sono diversi, non dobbiamo dire luoghi comuni, ma oggi occupiamoci del fatto che in questo giorno natalizio è meglio fare una piccola riflessione su quello che ciascuno di voi può fare in ascolto, può fare con pochissimo, per dare una mano a chi si impegna davvero nella vita, perché è ovvio che vengano primi i problemi di chi soffre, di tanti milioni di italiani che non hanno lavoro, no, e hanno problemi seri, non sono in condizioni di avere dal welfare e dal sistema sanitario una risposta ai loro problemi. Però nella nostra vita quotidiana ci sono anche milioni di animali i cui problemi, per quello che ci danno, non vanno trascurati. Ed ecco perché innanzitutto cominciamo questa trasmissione con due ospiti che abbiamo scelto proprio per le testimonianze che possono portare, per quello che fanno nella loro vita. Innanzitutto è con noi Mauro Cervia, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno soprattutto di avere un pensiero a Natale tra gli animali, grazie di tutto. Mauro Cervia è un molto noto veterinario a Milano, in centro di Milano, ed è presidente, oltre che volontario, anche di un'associazione, Amo gli Animali Onlus, che si occupa proprio di tutela dei diritti degli animali, di salvaguardia del loro benessere. Vogliamo ricordare qual è l'indirizzo della Onlus, dottor Cervia? Facile, basta cercarla su internet e si trova tutto. Quindi www.amogliani.com. Allora, in questa prima parte della trasmissione, oltre al dottor Cervia, è con noi Daniela Trevisan, che è una volontaria. Buongiorno, Daniela Trevisan, che è una volontaria dell'EMPA, l'Internazionale Protezione Animale di Treviso, e coordinatrice di un progetto Spagna, e gli chiederò tra poco di spiegarci in che cosa consiste, perché la Spagna è un paese nel quale le stragi di cani nei canili rappresenta un po' la punta del modello da non seguire, e quindi dare una mano a chi si occupa, anche se sta in Italia, di risolvere questo problema senza farli cremare voltandosi dall'altra parte è per me una piccola ma grande prova di sensibilità. Allora iniziamo con Mauro Cervia. Lei ha innumerevoli episodi in realtà di animali salvati, operati in seguito ad abbandoni, a maltrattamenti. Posso chiederle se in questi ultimi anni ha visto un cambiamento dell'etos, del comportamento degli italiani verso gli animali? Sì, direi in meglio. Sono abbastanza contento perché comunque gli abbandoni sono leggermente diminuiti e soprattutto le persone hanno più rispetto per gli animali. Però non è sufficiente, perché ci sono sempre dei grossissimi problemi. Noi interveniamo in varie situazioni con la nostra associazione, soprattutto grazie in merito al fatto che è composta da dei veterinari, cioè parecchi veterinari collaborano con questa associazione oppure addirittura ne fanno parte. Per cui quello che facciamo è concreto, cioè per esempio abbiamo aperto delle sale operatorie dove andiamo a operare e a sterilizzare gli animali, perché una campagna contro l'abbandono e contro il randagismo certo tende a diminuire il numero degli animali, e quindi è importantissimo che i cani, gli animali randagi, vengano sterilizzati. Questo per non riempire i canili. L'ultima nostra iniziativa adesso che porteremo a termine con l'anno nuovo, con l'inizio dell'anno nuovo, è abbiamo proposto la costruzione di micro rifugi. Cosa si intende per micro rifugi? Per micro rifugi si intende un posto dove, molto accogliente, perché comunque occuparsi di pochi animali è meno impegnativo che occuparsi di centinaia di animali, quindi sono più curati, dove sarà un posto di passaggio per gli animali, per esempio anche gli animali che arrivano dalla Spagna, no, dove c'è una situazione di cui parlerà questa signora dell'EMPA, incresciosa, vengono raccolti questi animali, vengono curati e poi vengono fatti adottare, cioè è un punto di passaggio, non è un punto dove l'animale va e resta per il resto della sua vita, come succede in molti canili in Italia, purtroppo. Lei si è occupato molto anche di un problema che in alcune parti d'Italia, penso soprattutto al sud, è quello dei cani in gruppi vaganti e aggressivi. In particolare dove questi fenomeni si verificano? Allora, noi l'abbiamo fatto. Il problema per me è scoppiato soprattutto in Sicilia, dove ci sono state delle aggressioni all'uomo, perché ci sono questi gruppi di animali, cani randagi, affamati, che a differenza, il lupo è un animale che ha paura, timore dell'uomo, per cui ne resta, si nasconde, è difficilissimo vederlo, mentre il cane randagio, purtroppo, quando si raccoglie in gruppi, come si comporta? Ha confidenza con l'uomo e può addirittura assalirlo, come purtroppo è successo. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo questa sala operatoria a Pantelleria, dove ci sono parecchi cani, dove c'erano parecchi cani randagi, e abbiamo due volte all'anno andiamo appunto in questa isola e cerchiamo di sterilizzare più cani possibili, aiutato dall'associazione del posto, che sono bravissimi, ci sono dei volontari bravissimi, un canile direi per il per quel posto anche abbastanza bello, e noi interveniamo in questo senso, cioè cerchiamo di sterilizzare più cani possibili per evitare che si riproducano e che quindi ci siano dei randagi affamati che girano per l'isola. Senta, molti anziani, quando rispetto a questo, alle microfamiglie oramai italiane, cioè uno dei problemi della nostra società è quello che poi tendiamo ad avere anche troppe famiglie nucleari di anziani che hanno problemi perché sono soli, hanno problemi di deambulazione, ovviamente sono affetti da patologie croniche, eccetera, eccetera. E per molti di questi anziani poi il cane, il gatto che tiene loro compagnia diventa a propria volta poi un essere vivente che ha bisogno di cure e attenzioni che non sempre l'anziano è in grado di offrire. Ecco, in questi casi questa associazione che avete fondato anni fa, perché ormai sono 6 anni l'ha fondata Mauro Cervi insieme a Fabio Borganti, che è un altro veterinario milanese, come si può pensare di intervenire? Allora, in effetti il problema dell'anziano oppure dell'emarginato nelle grandi città è grosso, perché queste persone non hanno rapporti interpersonali, quindi si sentono inutili. Un animale gli può dare un senso nella vita, perché occuparsi di un animale, poterlo portare a passeggio, tra l'altro li costringe a muoversi e li aiuta anche a avere dei rapporti con le altre persone, perché le persone quando vengono in giro con un cane ti fermano, ti chiedono del tuo cane, quindi ti gratificano in un certo senso. Direi che è molto utile, molto importante per certe categorie di persone, come sono per esempio gli anziani. Certo, un anziano non si può occupare di un cucciolo, perché un cucciolo è esuberante, perché un cucciolo è impegnativo, perché un cucciolo ha bisogno di muoversi e correre. Però per esempio noi abbiamo promosso delle adozioni di bastardini magari di una certa età, quindi anche loro che non hanno più voglia di andare a correre ai giardini, per un anziano. Quindi questo è un rapporto ideale, è un rapporto ideale, perché comunque l'anziano si occupa del suo cane, il suo cane non è educato, non è più di tanto impegnativo, e però gli dà un senso nella vita, quindi gli riporta serenità, direi. Allora, sul sito si trovano anche le modalità naturalmente per dare una mano all'associazione Amo gli Animali Onlus. Sì, certo, certo, certamente. Anche su Facebook noi abbiamo una parte molto attiva con tantissimi iscritti che appunto collaborano con la nostra associazione. Daniela Trevisan, innanzitutto l'EMPA di Treviso, da che se ne occupa lei come volontaria, in questi anni com'è andato? Più cose da fare, meno cose da fare, più collaborazione con gente comune, con i volontari, meno sensibilità? Cervia ci ha detto negli anni è un po' migliorata la situazione, dal suo punto di vista nel suo osservatorio territoriale è uguale o no? Sì, fortunatamente a Treviso abbiamo osservato per l'appunto che c'è una maggiore interazione da parte della popolazione verso la tutela e la salvaguardia dei diritti animali. Ritengo che a Treviso è comunque un'area abbastanza felice rispetto a molte altre parti d'Italia, dove non si capisce se per pigrizia, indifferenza o mancanza di cultura questo non avviene. Nelle nostre zone abbiamo osservato comunque anche l'incremento delle segnalazioni per maltrattamento. Il tallone d'Achille nostro, personalmente e anche per tutta la sezione EMPA, sono piuttosto le amministrazioni locali, che molto spesso, anche a fronte di nostre segnalazioni, forse troppo spesso, fanno orecchie da mercante e non partecipano a quelli che dovrebbero essere i loro doveri. EMPA in questi frangenti si sta occupando moltissimo del proprio territorio e soprattutto anche la sensibilizzazione, non solo in merito a gatti e cani, ma qui a Treviso abbiamo fatto una grandissima opera di sensibilizzazione per la tutela degli anfibi. Ogni anno noi salviamo centinaia di migliaia di anfibi nello spostamento che c'è nelle prime periodi primaverili. In termini di cani e di gatti, nel nostro territorio allo stato attuale troviamo molta difficoltà a tutelare i gatti, tantissime colonie sono presenti per l'appunto e sfortunatamente, come si diceva, le amministrazioni non prendono in carico di questi animali, quindi pesa tutto sull'associazione. Dall'altra parte, fortunatamente, la popolazione presente nel nostro territorio, conoscendoci e vedendo quali sono i nostri sforzi, ci sta sostenendo moltissimo. Di questo dobbiamo esserne felici. Io volevo ricordare a chi è in ascolto che l'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, non gode di agevolazioni fiscali, non riceve contributi dallo Stato, ha una storia molto lunga perché nel 1871 fu Giuseppe Garibaldi a volerlo. Naturalmente poi è una onlus, quindi da questo punto di vista potete, per così dire, contribuire. Questo progetto che avete messo in piedi a Treviso, come altrove, ma a Treviso per seguire in particolare ipotesi di adozione per i cani abbandonati e che nel sistema, diciamo così, di come lo vogliamo chiamare, spagnolo, non voglio usare aggettivi perché me ne vengono di troppo pesanti, sono condannati poi allo sterminio, come interagisce con le autorità spagnole? Noi in sostanza abbiamo messo a punto questo progetto, così definito Progetto Spagna, oramai sono 2 anni che operiamo nel territorio. Lo facciamo appoggiandoci a delle associazioni di volontariato che sono presenti per l'appunto nelle province più importanti delle regioni spagnole, e così facendo siamo riusciti a creare comunque un rapporto di collaborazione. È stato difficile, molto difficile, perché le stesse associazioni spagnole in alcuni territori, esempio può essere Murgia piuttosto che Badajoz, piuttosto che alcune altre aree del sud della Spagna, non danno i cani all'Italia, preferiscono che i cani vengano uccisi. Quello che noi facciamo è stato quello per appunto innanzitutto di creare un rapporto umano con le persone e cercare anche di portare avanti quella che è la nostra politica per la tutela animale in una terra che non è la nostra, per quanto appartenga alla comunità europea. Quello che abbiamo fatto in sostanza è stato quello per l'appunto di trasferire poi a sua volta la situazione spagnola in Italia e dare informazioni. In 2 anni allo stato attuale abbiamo salvato quasi 300 cani. Questo avviene per l'appunto con una raccolta di fondi e, come giustamente lei ha detto, noi non siamo sostenuti assolutamente dallo Stato, quindi tutto quello che riusciamo a raccogliere è fatto e avviene per gli sforzi dei volontari, soprattutto, io direi a questo punto per quanto riguarda la Spagna, per la sensibilizzazione che è stata fatta su tutto il territorio nazionale, perché noi riceviamo consensi da tutta Italia. Con questo molte volte veniamo anche attaccati per il fatto che non tuteliamo sufficientemente il nostro territorio. È un progetto che l'abbiamo studiato e voluto per salvaguardare gli animali. Della anche perché io ricordo a chi è in ascolto che vi potrà sembrare strano, ma forse un po' meno strano se magari vi chiedete come mai proprio in Spagna. Beh, in Spagna c'è una legislazione particolare per cui i randagi, quando vengono acchiappati e rinchiusi, c'è un contributo pubblico quando entrano, cioè per il fatto di essere acchiappati e rinchiusi, e a quel punto i canili e i gattini si prendono i 60 euro. Dopodiché, dopo 10 giorni, se nessuno le chiede il riscatto, gli animali vengono sterminati. Allora voi capite che chi li gestisce ha solo l'interesse ad acchiapparli, prenderli ed eliminarli. E questa è la particolarità per cui chi è sensibile a questo problema si mobilita e tenta adozioni a distanza, per così dire, perché è un sistema incentivante e premiante solo per lo sterminio. Come poi la Spagna, che nella legislazione, nei diritti civili, nei PAX, nei matrimoni omosessuali è all'avanguardia e da tanti invidiata, abbia deciso di darsi delle regole così bastardamente antivita per i nostri amici a quattro zampe con la coda. Ecco, questa per me è una cosa totalmente incomprensibile. Che ne pensa il nostro amico Mauro Cervia? Penso che comunque, oltre a essere incomprensibile, è anche diciamo illegale, perché comunque non è più... cioè l'Europa ha fatto delle altre leggi per gli animali, per il rispetto degli animali, la cosa più importante è il rispetto degli animali. Certo, è molto più difficile prenderli, sterilizzarli per ridurre il randagismo piuttosto che sterminarli, no? Ma poi è la crudeltà di come lo fanno che a me fa specie. Tutti i cani salvati dalla Spagna che noi riusciamo a vedere, curare e poi fare adottare sono denutriti, quindi vuol dire che quei 10 giorni i cani vengono affamati. Anche questa è una cosa di un incivile incredibile, perché dov'è il rispetto per la vita umana? Dov'è il rispetto per la vita? Non esiste, cioè tu prendi un cane, lo butti in un canile e lo lasci lì, non gli dai da mangiare, non gli dai da bere e poi lo sopprimi. È una cosa incivile, è una cosa veramente incivile. Allora, che in questo giorno di Natale noi chiediamo una riflessione di fronte a un rispetto al diritto alla vita in tutte le sue forme, a me sembra una cosa di civiltà, mi sembra una cosa buona e giusta. Posso chiedere a Barbara, nell'ultimo minuto prima di andare in pubblicità, nelle scuole, per esempio, i volontari dell'EMPA che cosa riescono concretamente a fare con i ragazzini, i bambini per sensibilizzarli? Noi all'interno delle scuole stiamo comunque portando avanti dei progetti di educazione. Non è una cosa semplicissima, per l'appunto, perché anche le scuole, non tutte le scuole, sono molto sensibili. E sfortunatamente la mancata educazione dei bambini fa sì che poi le stesse adozioni possano avere dei problemi. E qui non si parla di cani spagnoli piuttosto che italiani, bensì si parla della coscienza dei genitori di non sapere come istruire i propri figli nel rispetto animale. Le scuole, a nostro avviso, dovrebbero impegnarsi molto di più. EMPA fa dei progetti destinati al pubblico giovanile, se così vogliamo definirlo, su delle giornate ben particolari, che sono le nostre feste del bastardino, dove per l'appunto noi raccogliamo moltissime persone all'interno di queste manifestazioni per sensibilizzarli di fronte al rispetto animale e nel tentativo di cercare adozioni anche ai cani dei canili, che senz'altro possibilità sarebbero comunque destinati a permanere all'interno di queste strutture. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità. Io intanto ringrazio Daniela Trevisan, volontaria dell'EMPA di Treviso. Ricordo che trovate l'indirizzo mail dell'EMPA di Treviso, www.empatreviso.it, e anche lì le indicazioni per dare una mano direttamente non solo al programma di adozione a distanza per i cani contro la perrella spagnola, ma anche per quelli salvati dall'est, che sono un'altra parte dell'Europa, dove gli animali, diciamo, hanno meno diritti che da noi e meno sensibilità ovviamente che da noi. Detto tutto questo, invece, Mauro Cervia ci segue e ancora con gli animali dopo la pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati. È una registrata, ma siamo la mattina del Natale, per così dire. Quindi buona giornata ancora di Natale. Stiamo parlando di animali, lo facciamo perché prima che finisse questa mia lunga pluriennale permanenza ai microfoni, non so se finirà per sempre, spero di no, ma comunque il microfono di Radio 24, siccome ho sempre aperto la trasmissione con la voce di uno dei miei gattoni alfa che mi ha seguito nella vita, che vi salutava ogni mattina, oggi ho dedicato questa trasmissione del Natale insieme a testimoni, protagonisti, volontari che si occupano dei nostri amici a quattro zampe, che ci accompagnano la nostra vita, gli animali, e parliamo della difesa dei loro diritti, di quello che si può fare e che dovreste in un giorno come questo immaginare anche di fare, perché basta poco ma si possono risolvere molti problemi. E sempre con noi Mauro Cervia, presidente di Amo gli Animali Onlus, e anzi proprio dal sito di Amo gli Animali beccatevi questo spottino di che cosa può fare, e la voce di Luca Laurenti, lo riconoscerete. E non mi far muso, te prego. Oggi è pure la festa tua, Tu non sai le orme che ho lasciato sull'asfalto per trovare un gioiello da te. Tiè, guarda che bello, Però stavolta lo apro io, che l'ultima volta me l'hai tutto rigato. Buon San Bastardino! Protettore di chi ha un cane sempre vicino. Ovunque andrai, non abbandonarlo mai. Eccoci qua, per ricordare che la pratica, naturalmente, di abbandonare gli animali è una roba di totale abdicazione a quello che dovrebbe essere considerato un codice comune che riguarda non solo la vita umana, ma ogni forma di vita. Ogni forma di vita. Diffidate di chi tratta male gli animali. Ho imparato che di solito, magari ipocritamente dicendo il contrario, fingendo il contrario, fa la stessa cosa anche nei confronti della vita umana. Almeno io spesso ho avuto prove di questo tipo. So che molti di voi in casa dicono no, assolutamente no, sono due cose totalmente diverse, non si può paragonare la vita animale alla nostra. Perfetto, tenete conto che se questo criterio distintivo poteva essere proprio di una società povera, agro-pastorale, nella quale in realtà erano vicini agli animali, coloro che dagli animali avevano poi fonti tenuta e diritto di sostentamento. Quanta parte, per quanti secoli l'Italia, come del resto dell'Europa, trattava le bestie dalle quali si traeva sostentamento, meglio addirittura della vita umana, ma per il resto poi si era indifferenti alla vita degli animali. Ma grazie al cielo la civiltà e i tempi dovrebbero essere cambiati. Non per tanti di noi, purtroppo, per molti ancora non è così. Allora, oltre a Mauro Ceglio che resta con noi, poi tornerò a chiedergli, si è aggiunto in questa seconda parte di trasmissione Silvia Viviani, che è presidente dell'associazione culturale Colonia Felina di Largo Argentina. Buongiorno presidente. Buongiorno, con chi ho l'onore di parlare? Sono Oscar Giannino, conduttore di questa trasmissione. Non avevo riconosciuto la sua voce, però, anche perché sento piuttosto male. Lo so, per telefono. Se potete chiedere ai tecnici di alzare un tantino l'audio. Ecco, va bene. E oltre a lei c'è anche il sindaco di Seriate in provincia di Bergamo, Silvana Santisi Saita. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno signor sindaco. Allora, l'associazione culturale Colonia Felina di Largo Argentina spesso finisce sui giornali nazionali perché è una grande colonia storica, sta al centro di Roma, sta dove ci sono gli scavi dell'area repubblicana, dei templi, e quindi un po' la conoscono tutti nel mondo, e da molti, molti, molti anni è il luogo nel quale molti volontari adottano, sterilizzano, ne curano la salute e sfamano una nutritissima colonia di gatti. Però è anche ricorrente per questa colonia fine storica un problema nell'avere a che fare con la pubblica amministrazione, ed è riesploso puntualmente poche settimane fa, perché di tanto in tanto vuoi la sovrintendenza ai beni artistici, culturali e monumentali, vuoi un sindaco, vuoi un amministratore pubblico, dicono no, ma insomma in questa area così centrale, così importante per i turisti, per il significato monumentale e così via, sta colonia non c'ha da sta, e ogni volta bisogna ricombattere la stessa battaglia. È così, presidente Viviani? Sì. Ecco, ma perché i politici apparentemente sembrano così sensibili al tema in campagna elettorale? Guardi, perché ci sono anche dei fraintendimenti. Molti pensano che la nostra presenza sia molto visibile. In realtà noi siamo defilatissimi perché ci troviamo dentro un sotterraneo, esattamente il sotterraneo dove sono stati piantati piloni per sorreggere la strada che ci passa sopra, via Florida. Ma loro dicono che questo è il pavimento di un tempio, che peraltro è stato violato 70 anni fa, quando ci hanno messo questi enormi, spaventosi piloni. Evidentemente hanno sacrificato questo bene culturale archeologico al dio della viabilità, evidentemente non è colpa nostra. Quindi noi siamo in quest'area praticamente a fare questo lavoro volontario assoluto, è conosciuto non soltanto dai romani ma soprattutto da gente, da persone di tutto il mondo. Certo. Che passano di qua, vedono quello che facciamo, scendono perché vedono una densità di gatti un po' superiore al normale, c'è una scaletta, scendono e inopinatamente si trovano di fronte a questo spettacolo, che però è poco descrivibile, bisognerebbe che le persone che ne parlano venissero, ed è per questo, per questa specie di, per questo equivoco che sorgono in continuazione questi problemi. Comunque il 4 di dicembre è venuto il sindaco e ha detto che noi dobbiamo rimanere qua, ma come lei ben sa, i sindaci purtroppo passano e i funzionari restano. E i funzionari, diciamo così, continuano a ritenere che la vostra presenza lì non sia proprio il massimo, per così dire, restano non indifferenti. Sia il massimo, esattamente. No, poi vorrebbero, guardi, comunque noi siamo qui da 20 anni e ci resteremo a tutti i costi, soprattutto bisogna che il pubblico ci aiuti in questo, che faccia sentire la sua voce, perché quello che noi abbiamo fatto in questi 20 anni è servito. Noi praticamente nel centro di Roma non si vede più un randagio. Esatto. Perché siamo un'associazione culturale? Perché abbiamo instillato nei cervelli della gente, talvolta anche a martellate, l'idea della necessità della sterilizzazione. Esatto. Mentre storicamente chiunque si aggirasse per i vicoli del centro di Roma trovava moltissimi gatti randagi abbandonati. Questo è un fatto incontestabile. Sentiva degli effluvi poco, esatto, come dire, poco gradevoli, mentre questo ora non accade più. Certo, c'è l'immensa periferia di Roma. Dove il problema, purtroppo. Senta, posso chiedere volta, negli anni se avete registrato un aumento della collaborazione istituzionale, di qualcuno che vi ha dato una mano? Dico gli istituzioni, non dico i turisti. Guardi, che si fermano e contribuiscono. Noi, se vogliamo proprio essere, dire le cose come stanno, finanziariamente noi siamo completamente autosufficienti, perché appunto i turisti, gli amici, gli adottanti, eccetera, eccetera, fanno in modo che noi abbiamo la goccia della provvidenza, non la cornucopia dell'abbondanza, ma la goccia della provvidenza giorno per giorno. Non abbiamo mai chiesto una lira al comune, non costiamo nulla alle tasche del contribuente, e viva la faccia. Oh, e di questo sono non solo felice, ma devo registrare che alcuni dei miei amici, quando io mi sono sposato, io ho dato due indicazioni. Una era per un'associazione che dà il sostegno ai malati di cancro e di leucemia, e l'altra indicazione concorrente era esattamente quella a favore della colonia Finia di Largo Argentina, perché sono le due declinazioni nelle quali io credo che bisogna in entrambi i casi impegnarsi. Allora, Presidente, ci indica dov'è il sito nel quale chi vuole sostenervi questa giornata di Natale, ma se lo scrive mentre ci ascolta, per darvi una mano e inviarvi un contributo? Grazie, il sito è www.gattidiroma.com. Ecco, e io prego. Oppure, sì, meglio ancora, se, abbiamo due siti, anche uno in inglese, per chi non ha difficoltà, e credo che ormai non ce l'abbia più nessuno, www.romancats.com. Romancats.com. Ringrazio il presidente per quello che fanno tutti i volontari, sono sotto gli occhi di tutti, chiunque vada lì ogni giorno può è testimone dell'opera che svolgono, quando puliscono, rassettano, sfamano, e poi anche della cura che mettono per seguire le patologie di una colonia che fa parte, secondo me, integrante, altro che problema, fa parte integrante delle colonne che restano nel tempo di Volumnia o di Feronia e così via, che sono quelle appunto di quella area archeologica repubblicana. Quindi grazie a Silvia Viviani. Invece veniamo al sindaco di Seriate. Il sindaco di Seriate ecco, è un comune che insomma ha aperto un vero e proprio ufficio per il problema dei diritti degli animali. Front office con molti orari d'apertura. Allora, io vengo, voglio sfatare un pochino la categoria dei politici, sono un po' anomala, ma vengo dall'insegnamento di scienze e di biologia, quindi ho una mia anche cultura particolare, ma di rispetto di tutte le creature del creato. Mi è piaciuto molto l'introduzione che avete fatto. E l'uomo nei tempi passati ha dominato distruggendo, oggi si sta capendo, si è più consapevoli, anche se riparare i danni sarà un po' più lungo. Le questioni culturali hanno bisogno di tempi lunghi. Per cui noi siamo partiti con questo progetto, la Regione Lombardia l'aveva fatto non obbligatorio, era un po' libero per chi volesse partecipare, grande manna anche in questi momenti, perché io ho un bilancio perfetto, anche con l'Oscar di bilancio, tre comuni su tutta Italia, i finanziamenti sono difficili, mi hanno dato anche un finanziamento di 12.000 euro. Dunque noi ci stiamo ponendo insieme all'AV, insieme agli enti locali, ho un canile di grande livello con cui siamo in ottimi rapporti, sempre costantemente seguiamo anche per le adozioni. Il nostro grande obiettivo è proprio di dare questa forma di cultura anche chi tiene il cane, che lo tenga bene, che non lo abbandoni, quindi c'è un riferimento, che sono in genere 3 su 4 che hanno qualche animale in casa come percentuale. Dare un riferimento che il cane non deve essere il figlio, come estremizzano da alcune parti, neppure quello da legnare, da tenere fuori al freddo, al gelo, da abbandonare l'estate. Quindi da questo punto di vista un lavoro ci proponiamo proprio in questo senso sui proprietari di animali in casa. Secondo aspetto, anche di rispettare i diritti degli altri. Noi da anni che lavoriamo con palette, sacchetti gratis nei parchi, aiutando con i volontari perché siano anche rispettosi dei diritti degli altri cittadini. L'altro aspetto, ora siamo già partiti con la campagna che è stata patrocinata anche proprio dalla LAV, dall'Ordine dei Medici Veterinari, sono stati molto carini e interessati, e anche la provincia di Bergamo, per la campagna della sterilizzazione, perché poi trovare i cuccioli in giro abbandonati o buttati non è uno spettacolo bello. Io ne ho tenuto uno per 15 anni proprio raccattato in un dirupo. Un bastardino favoloso, vi sentivo parlare della pubblicità, certo. Che sono anche, era un misto volpino ma intelligentissimo. E quindi questa campagna è già iniziata. È iniziata la campagna da tempo, quindi rispetto alle segnalazioni. Molti cittadini adesso segnalano, e questo è un buon segno di sensibilità se vedono un cane maltrattato o qualcosa del genere. E poi anche tutto un po' il cammino. Noi abbiamo questa ambizione di un progetto così, non di un piccolo settore, ma che abbia una sua valenza, una sua integrazione. Quindi il cammino parte, c'è. Ho un ufficio dell'ambiente veramente di grande eccezione, proprio di persone che ci credono, e i tempi saranno quelli man mano dettati anche dalla modalità. Ah, certo, perché l'assunzione, cioè la delibera con quale è stato istituito questo servizio è relativa allo scorso mese di ottobre. Comunque è un ufficio che già è aperto da lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30, il giovedì anche dalle 16 alle 18. C'è un indirizzo di posta elettronica che è diritti animali@comune.seriate.bg.it, quindi è già operativo ed è il segno di come amministrazioni pubbliche guidate da persone sensibili, come il caso sindaco di Seriate, possono, con risorse limitatissime, perché qui stiamo parlando veramente di poche migliaia di euro, con risorse limitatissime, però a propria volta diventare sportello, interfaccia, promotori di una cultura diversa, e anche a dare una sponda poi ai volontari su questo. E quindi questo è un aspetto fondamentale. Allora, io ringrazio anche il sindaco di Seriate. Ora andiamo all'informazione stradale, ma la domanda che subito anticipo, con cui ricominciamo quando torniamo tra un minuto a Mario Cervia, è: da questo punto di vista le amministrazioni pubbliche italiane, nei lunghi anni in cui lei ha prestato il suo servizio come volontario e come veterinario, se li paragoniamo ad altri paesi europei, dovesse dire in quale paese europeo veramente c'è un'organizzazione pubblica di maggior sostegno a chi fa cose di volontariato come fate voi di Amo gli Animali Onus? Qual è il paese europeo che se la passa meglio? Noi in che punto siamo della graduatoria comparata? Però dopo il traffico torniamo tra un minuto. 9 in punto, la versione di Oscar. Ed eccoci in questa terza parte dopo il traffico di questa trasmissione, sia pur registrata, natalizia, dedicata ai nostri amici a quattro zampe. La domanda che abbiamo fatto a Mauro Cervia, veterinario, presidente di Amo gli Animali Onlus, è: ma insomma, gli altri paesi europei rispetto a noi nell'organizzazione dei servizi pubblici come controfaccia di chi fa il volontario su questi temi, come sta messa? Noi a che punto siamo della graduatoria? Beh, è difficile, è una risposta difficile da dare. Io so solo che anche gli altri paesi d'Europa hanno comunque delle sacche di randagismo come noi, c'è chi li risolve come la Spagna, ed è, insomma, non è che sia il modo migliore per risolvere. Invece ci sono paesi dove esiste una grande cultura degli animali, come per esempio la Francia e l'Inghilterra. Cioè, in Francia e Inghilterra c'è un grande rispetto degli animali, quindi forse superiore al nostro, anche se purtroppo anche in quei paesi esistono problemi di randagismo. Ora, io prima ho sentito il sindaco di Seriate e mi è piaciuto molto come si pone, soprattutto il fatto che ha parlato del proprietario dell'animale deve rispettare l'ambiente, deve rispettare le persone che non amano gli animali, perché ora non tutti devono amare gli animali, però li devono rispettare tutti. Ma spetta anche a noi proprietari di animali far rispettare il nostro cane, per esempio raccogliendo gli escrementi, evitando di farlo urinare in tutti i posti. Per esempio, io ho visto una scena a Milano sbagliata, cioè di un proprietario di cane che andava a passeggio con il suo cane ha visto una moto che era stata appena parcheggiata, quindi il motore era ancora caldo, e cosa ha fatto? Ha urinato sul motore. Lui doveva impedirglielo. Cioè, il cane impara tutto, spetta a noi insegnarglielo, quindi spetta a noi insegnargli di essere educati. Il problema è che molto spesso le persone non sono particolarmente educate. E quindi mi è piaciuto moltissimo il sindaco di Seriate, e vorrei che prendesse esempio anche il nostro sindaco di Milano, che purtroppo trascura il problema animali. Abbiamo parlato di colonie feline, esiste una colonia felina al Castello Sforzesco che è gestita da una signora anziana, e noi l'aiutiamo come possiamo, cioè le passiamo del denaro, le forniamo degli alimenti e curiamo gratuitamente gli animali, però non spetta a noi fare questo lavoro, spetterebbe al Comune di Milano, anche perché gli animali che vivono liberi in un comune sono di proprietà del comune. Quindi è lui che dovrebbe prendersi l'impegno di curare questa colonia felina. Ma i gatti, a differenza dei cani, possono vivere anche liberi, possono vivere in colonie, localizzano un posto, un ambiente che gli è particolarmente favorevole e lì si riproducono, eccetera. Però aspetta il comune sterilizzarli, poi rimetterli in libertà e occuparsi di queste colonie. Non certo ai volontari, come succede di regola. Per adottare un criterio di civilizzazione dei proprietari degli animali, che cosa si può fare, Cervia? Perché il problema è che molti ho l'idea che invece basta andare in qualunque strada e vedere quanti proprietari ancora non si occupano di questa cosa basilare che lei ha descritto, cioè raccogliere sempre gli escrementi, evitare di farli deporre dove non bisogna e così via. In realtà come si fa a cambiare la testa della gente? Allora, io nel mio piccolo lavoro su questa cosa, cioè io educo i proprietari degli animali, cioè gli insegno delle cose fondamentali che loro poveri non conoscono, per educare il proprio cane a vivere in un ambiente che è una città, che non è il suo ambiente, però ci si può adattare benissimo. Gli insegno a portare il guinzaglio, gli spiego che contraddire, loro hanno, la gente ha paura di contraddire il proprio animale perché lo ama a tal punto che teme che contraddicendolo poi il cane non lo ami più. No? E questo è sbagliatissimo, perché il cane non ha bisogno di un papà, di una mamma, ma ha bisogno di un padrone, cioè di una persona autoritaria che, a cui fa riferimento, che lo sgridi, che sappia sgridarlo nel momento opportuno, no? Invece per paura di contraddirlo spesso non fanno queste cose, quindi spetta molto spesso al veterinario insegnare le norme più semplici di educazione. Per esempio, io in studio ricevo parecchi cani durante il giorno. Cosa succede? Che i maschi escono dalla porta e cosa fanno? Alzano la zampa sulla mia porta, certo. E il proprietario cosa fa? Rimane lì e lo fa urinare. Ora, non gli costa niente trascinarlo un po' più in là e fargli fare la pipì un po' più in là, anche perché se lui marca il territorio sulla mia porta, poi tutti i cani, esatto, che passeranno di lì mi faranno la pipì sulla porta. Ma non è, cioè, è semplice, non è offensivo spiegargli una cosa del genere. Quindi io direi che spetta soprattutto al veterinario educare il proprietario degli animali. Anche perché questo è un problema di ordine generale, ohimè, tanti papà e tante mamme fanno la stessa cosa, non voglio dire altrettanto sbagliata, perché ovviamente un bambino non è un cane che riconosce un capobranco nel padrone, ma il problema è che non farlo con un minimo, non di autoritarismo, ma di autorevolezza neanche con i bambini piccoli, è ancora più devastante. Quindi noi viviamo in una società che da questo punto di vista è incapace di declinare, è intollerante da una parte e dall'altra non è capace di declinare in maniera ragionevole i principi di autorevolezza, e così otteniamo il massimo del caos e dell'intolleranza ancora di più. Ci ha raggiunto per una testimonianza Barbara Glaviano. Barbara Glaviano è presidente di un'iniziativa che a molti potrà sembrare veramente singolare, perché la sua associazione no profit si chiama Lions Pug Rescue. E cioè, che cos'è? È l'associazione no profit che si occupa di salvare, di dedicarsi, per così dire, i carlini. È un'associazione di salva carlini. Ma perché i carlini, che vengono associati nell'immaginario di chi ha presente di quale tipo di razza canina stiamo parlando, come il cagnolino da grembo dei ricchi, dovrebbero avere bisogno di un'assistenza particolare? Di solito viene associato a un cane di chi ha molti soldi, per così dire. Pronto? Sì, eccoci sì. Con lei. Sì, le ho fatto una domanda, allora, senza ringraziarla di essere qua, e quindi sono andato subito al dunque. Ha fatto bene. Dunque, in realtà la domanda che lei solleva potrebbe essere quello che nell'opinione, diciamo, comune si ritiene. In realtà non è affatto così. Ci sono in Italia diverse associazioni chiamate rescue di razza, quindi associazioni che si occupano di una sola razza di cane, e questo consente di ottenere dei risultati notevoli. Noi abbiamo salvato, recuperato, curato e affidato circa 200 carlini in meno di 3 anni, provenienti da ogni tipo di situazione. Il carlino non è affatto un cane da ricchi, come non lo è nessun cane di razza. Quello che noi cerchiamo di sottolineare è che la realtà di questi cani, oltre a subire tutto ciò che subisce, diciamo, il meticcio, che magari finisce più spesso in canile, sono soggetti a una forma di abuso tutta loro, che è quella che deriva proprio dall'essere soggetti a compravendita. E quindi purtroppo tantissima gente cerca di comprare cani di razza, non soltanto il Carlino, sotto costo, operazione che oggi è possibile in qualsiasi maniera, via internet, su fiere, negozi privati, senza porsi minimamente il problema di quello che questo comporti e soprattutto senza la consapevolezza di che cosa avvenga dopo. Noi abbiamo affidato Carlini che prima di arrivare a noi avevano cambiato famiglia già 4-5 volte per trovarsi magari a finire chiusi su un balcone legati al freddo o ceduti a gente a scopo di riproduzione. Insomma, c'è tutto un mondo che magari sfugge a chi pensa che l'unico cane che ha bisogno sia il cane nel canile. Non è così, quindi bene, diciamo, no, ma questo deve insegnare che appunto non esiste distinzione nell'occuparsi dei problemi, non sono solo i bastardi e i bastardini, sono anche tutti quelli di razza. E apprezzo molto che lei abbia detto che in realtà non è una razza dovuta alla selezione umana quella poi a definire, per così dire, una specie di avviamento patrimoniale del cane che è portatore di quel DNA. Non è così, perché in realtà i cani sono vittime poi di maltrattamenti, di abbandono, a prescindere da quale sia la loro razza, selezione e DNA. Quindi apprezzamento anche quello che fa Barbara Graviano, come tutte le associazioni non profit che si occupano di diverse razze, nel sostenere, nel dare una mano a chi si scopre magari padrone non all'altezza, proprietario non all'altezza di animali di questo tipo. Senta, Mauro, cerchiamo di concludere ricordandoci che questa va in onda il giorno di Natale, e le chiedo dei tanti casi estremi che negli anni, so perfettamente che sono capitati di essere intervenuto di fronte all'animale in situazioni particolarmente compromesse dal punto di vista della loro salute, della loro condizione ambientale e così via. Io lo so, perché a me è capitato a me nella vita, si figuri a lei, che non credo che lei sia quello che poi non si fa coinvolgere empaticamente dal destino degli animali che cura. Lei è capitato qualche volta di rimanerci poi appiccicato e veramente compromesso anche con lo spirito a un cane, un gatto, un animale che dava per spacciato e che poi invece sotto le sue mani si è trovato a rivivere? Ma sì, ma soprattutto adesso che mi viene in mente proprio un cane che mi ha portato Barbara Graviano, che devo dire io apprezzo moltissimo ed è bravissima, che è questo Carlino che è stato abbandonato perché era stato morsicato da un altro cane che gli aveva praticamente portato via metà muso. Mio Dio. No? Lei è stato trovato in Calabria, dalla Calabria è stato mandato in Sicilia, io me lo sono fatto portare a Milano, l'abbiamo operato. Gli abbiamo ricostruito il muso perché ci sono delle tecniche di chirurgia plastica che tra l'altro noi impariamo dai medici umani, perché io ho sempre rapporti con dei chirurghi plastici che mi insegnano quello che devo fare in certe occasioni, per cui sono molto soddisfatto di questo, perché il cane è stato adottato proprio dal volontario che me l'ha portato a Milano. Gli ho ricostruito perfettamente il muso e adesso gli farò un impianto di palpebra, perché gli manca completamente la palpebra superiore e l'occhio è salvo. Mi mandano regolarmente le fotografie e questo mi gratifica moltissimo. Io sono molto contento di aver fatto questa cosa, come l'anno scorso sono contento di aver fatto la stessa cosa dei cani che erano stati coinvolti in un incendio in un bosco a Taranto, anche lì trovati da volontari. Poi grazie a Striscia Notizie, Edoardo Stoppa, che è un grande per gli animali, perché è uno che si dedica moltissimo agli animali e fa tantissimo anche a rischio suo, perché Edoardo rischia veramente. Siamo andati insieme a vederlo, l'abbiamo portato a Milano, l'ho operato, anche in quel caso aveva gli occhi bruciati, le papere bruciate, il fianco bruciato, insieme a un chirurgo plastico di Milano che è il professor Signorini. Lui ovviamente non può operare gli animali perché è vietato dalla legge, però mi ha spiegato come fare, mi ha insegnato, è venuto più volte a visitarli. Li abbiamo ricostruiti perfettamente bene e sono stati adottati a Padova. Queste sono delle cose che mi danno una soddisfazione estrema. Allora, io ringrazio Mauro Cervia, richiamo l'indirizzo www.amogliianimali.com. Grazie a voi, se siete stati in ascolto, dedicate un minuto di attenzione e di generosità in questo giorno di Natale agli animali. Chi non ama gli animali difficilmente non mente se dice di amare davvero gli esseri umani, difficilmente non mente. Allora, buon sereno Natale e qualche giorno in meno ancora di programmazione, tra poco non ci sarò più, ma intanto buon Natale. Radio 24, la passione si sente.